cielo sereno. Tu parlavi piano, non sentivo, ma mi bastava un pensiero. Io guardavo in giro, quasi sperso in cerca di qualche appiglio. Mentre sprofondavo, mi ricordo che mi mancava il respiro. Però non ricordo dopo cosa ho fatto mai. Poi nel pomeriggio, ma che cosa ho fatto mai? Ora mi ricordo, ho puntato il viso sul mio orologio, che non si è fermato. E non ricordo per quanto tempo ho vagato dentro la stazione. E ho bevuto un mix di angoscia e veleno. Si è cambiato il tempo, sono salito così con un piede a caso. Però non ricordo dopo cosa ho fatto mai. Su quel treno cosa ho fatto mai. Non ricordo io. Non ricordo. Ora siedo davanti a un muro coi miei. Dopo cosa ho fatto mai? Dopo essere sceso, ma che cosa ho fatto mai? Ora mi ricordo, c'era un vecchio che urlava con quell'ombrello teso sul mio volto, spettinato da un insonne spavento. Ora mi ricordo, ho cercato di spiegargli il mio sogno. Lui non l'ho colpito, ma ricordo, ho corso come un ossesso. Però non ricordo dopo cosa ho fatto mai. Per scappare cosa ho fatto mai. Non ricordo. Non ricordo. Ora siedo davanti a un muro coi miei rimpianti. Non c'è nessuno. Torniamo un'altra volta da capo. A quel pomeriggio c'era il sole, lui tu parlavi piano. Io guardavi in giro, la tua voce si è fermata.